Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, a tutti buona giornata. Una banca efficiente sempre al tuo fianco. Ci strappa un sorriso amaro lo slogan che avrebbe dovuto descrivere la mission di Banca Network Investimenti e che campeggia ancora, se andate a vederlo, sul sito internet dell'istituto. Lo si trova anche nella pagina in cui il 31 maggio scorso, senza preavviso, la banca ha annunciato la sospensione dei pagamenti e l'impossibilità di operare. Insomma, da un giorno all'altro niente prelievi, niente bancomat né carte di credito, impossibile versare le bollette, pagare le rate dei mutui e usufruire degli stipendi che vengono accreditati sui conti. Questo per i circa 30.000 clienti che si sono trovati di fronte ad un'estate di disagi, preoccupazioni e tanta rabbia naturalmente, anche e forse ancora di più per i dipendenti, 54 persone che si trovano a perdere il lavoro. E anche ci mettiamo la rete dei promotori finanziari che operava per conto di questa banca, che pure si sono trovati in grosse difficoltà, non più in grado di dare risposte alla propria clientela e in attesa peraltro di trovare un'altra società che li accogliesse, come poi è accaduto. Per fortuna la scorsa settimana sono arrivate le prime buone notizie, il 17 luglio con la conferma della liquidazione coatta per la società in amministrazione controllata da novembre scorso si è potuto attivare il fondo interbancario di tutela dei depositi, il meccanismo di garanzia che permette entro 20 giorni e quindi teoricamente entro la prima settimana di agosto di rimborsare i depositi ricorrentisti fino a 100.000 euro. Questa mattina a Salva Danaio torniamo a ricostruire la vicenda della quale ci siamo già occupati ad inizio giugno, quando la situazione era ancora più nebulosa. Raccoglieremo le testimonianze di chi si è trovato coinvolto suo malgrado in prima persona in questa vicenda per l'appunto, e vi spieghiamo quali sono le garanzie e le procedure previste in caso di fallimento di una banca, vale a dire come funziona il fondo interbancario di tutela dei depositi. Allora, intanto raccontateci come avete fatto anche nell'altra puntata, se siete interessati alla vicenda di Banca Network. Nell'altra trasmissione ci telefonarono direttamente clienti della banca, i dipendenti della banca, che peraltro in questi giorni abbiamo anche avuto modo di incontrare perché hanno organizzato anche delle manifestazioni di protesta a Milano. Ci telefonarono anche dei promotori finanziari completamente scoraggiati rispetto a come erano andate le cose. Comunque potete continuare a raccontarci le vostre testimonianze, potete anche commentare la situazione all'800 24 0024. Noi questa mattina ricostruiremo la storia, faremo il punto sullo stato dell'arte della storia appunto di Banca Network Investimenti con Salvatore Gazziano, direttore di moneyreport.it. Salvatore, ciao, buongiorno e benvenuto, bentornato. Anzi, buongiorno a tutti. Sito di informazione finanziaria ma anche di consulenza finanziaria indipendente, ha ricostruito anche appunto questo sito, anche Salvatore ha ricostruito la storia di Banca Network Investimenti e ci faremo raccontare da lui che cosa ne pensa naturalmente, e ricostruiremo anche insieme a lui la storia di questa rete di promotori finanziari di banca appunto che ha qualche anno di vita. E poi naturalmente abbiamo chiesto anche il supporto di due associazioni dei consumatori. Abbiamo con noi Isabella Mori, responsabile servizio tutela di cittadinanza attiva. Mori, buongiorno, bentornata, benvenuta. Buongiorno a voi, bentrovati. E bentrovata anche ad Anna Vizzari dell'ufficio studi economico giuridici di Altro Consumo. Dottoressa Vizzari, buongiorno. Buongiorno. Allora, tante donne, Salvatore, stamattina, hai sentito? Questa mattina ti abbiamo costruito un piccolo harem intorno a te. Allora, io ho già ricordato, a parte gli scherzi, il numero verde a cui ci potete chiamare per dirci la vostra su questo tema, ma avete anche tanti altri canali per intervenire. 349-238-6666, il numero per i vostri messaggi. Ci potete scrivere all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Potete andare a scriverci anche sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. Rapidamente la borsa, poi entriamo subito nel vivo di questo argomento perché ci ha appassionato e ci teniamo molto. Allora, per chi auspicava il rimbalzo di borsa stamattina è stato già scontentato, e soprattutto le vendite sono ritornate molto forti sulle due borse particolarmente bersagliate negli ultimi giorni. Nostro malgrado ci siamo anche noi, c'è Milano che perde l'1,13% adesso sul FTSE MIB, Madrid perde oltre 2 punti. più tranquilla, per modo di dire, la situazione sulle altre piazze, che però non riescono a recuperare niente del terreno perso tra venerdì e ieri. Parigi adesso è a meno 0,08, Francoforte è a meno 0,05 sul DAX 100, Londra è pure in calo abbastanza corposo. Per quello che riguarda appunto però la peggior piazza, come vi dicevo, è proprio la Spagna, che perde oltre 2 punti. L'euro sul dollaro a 1,20,97, lo spread fra il BTP e il Bund, come vi indicavo prima nel corso del giornale radio, è ben oltre 500 punti base, siamo a 522 di nuovo. Adesso, ieri è stato toccato un top a 529, stamattina già a 523, per cui non si ferma la tensione sui mercati obbligazionari. Peraltro c'è stata anche un'asta dei titoli di Stato spagnoli, che la Spagna ha collocato titoli a 3-6 mesi per 3 miliardi di euro. I rendimenti sono cresciuti, però non sono esplosi rispetto all'ultima emissione, ma in ogni caso evidentemente anche questi livelli condizionano in maniera molto forte l'atteggiamento degli investitori. Oggi 2 appuntamenti previsti molto importanti. Ricordiamo che Moody's ha tagliato anche l'outlook alla Germania, sono state bloccate le vendite allo scoperto da parte della Consob italiana sui titoli bancari ed assicurativi, ma tutto questo non basta ad arginare le perdite. Oggi sentiremo che cosa dicono gli esponenti di Fondo Monetario, Banca Centrale Europea e Unione Europea, che sono in visita non tanto di piacere ad Atene, e poi c'è la riunione tra il ministro delle finanze tedesco Schäuble e quello spagnolo De Guindos a Berlino. Giornata davvero fitta di appuntamenti, il mercato attende una schiarita e intanto anche oggi la giornata volge al negativo. L'ultima informazione di servizio, oggi il Sole 24 Ore continua l'iniziativa La tua economia, come affrontare e superare la grande crisi. Oggi è in edicola il volume sulla casa, il quarto titolo appunto della tua economia. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, ritorniamo sulla vicenda di Banca Network Investimenti a quel punto della situazione. Il 1 giugno mi reco al supermercato per fare un pagamento e non riesco ad effettuarlo. Io sono tuttora dipendente perché Banca Network non ha ancora chiuso, sono anche cliente di questa banca, quindi ho subito lo stesso disagio di tutti i clienti di vedersi bloccato da un giorno con l'altro, anzi in un minuto con l'altro, il conto corrente. Già nel giugno dell'anno scorso per il nostro primo tour ci aveva detto che i conti non funzionavano, cambiando ci siamo salvati. La cosa che mi ha dato più fastidio, prima di tutto, è l'assenza di una comunicazione ufficiale da parte della banca. Mi sono recata allo sportello Bancomat e lì veniva fuori la dicitura che la banca aveva bloccato la carta. È sicuramente una lunga e difficile estate per i correntisti di Banca Network Investimenti. L'istituto, nato nel 2003, è sotto i riflettori dal 2009 per una serie di vertenze partite sia dai promotori che dai clienti. Da allora la crisi di Banca Network non ha fatto che aggravarsi. Nel novembre 2011 l'istituto viene messo sotto amministrazione straordinaria, ma è a fine maggio che sono iniziati i veri problemi. Da un giorno all'altro, il 31 maggio scorso, viene deliberato il congelamento di tutti i conti correnti. Impossibile prelevare contanti, usare il bancomat o la carta di credito, pagare le bollette, le rate di mutui e prestiti, effettuare bonifici. Un vero incubo per i quasi 30.000 clienti che hanno dovuto attendere fino alla scorsa settimana per avere dai giornali una buona notizia. Il 17 luglio, con la conferma della liquidazione coatta per la società, entra in gioco il fondo interbancario, il meccanismo di garanzia che permetterà, entro 20 giorni da quella data, di rimborsare i depositi. I correntisti possono quindi finalmente vedere la luce in fondo a questo tunnel e augurarsi un lieto fine, con la riconsegna dei propri risparmi e la possibilità di tornare a disporne. Va detto però che il fondo interbancario copre solo fino a una certa cifra. A ciascun cliente di Banca Network non potranno essere infatti restituiti più di 100.000 euro. Non dire gatto fino a che non ce l'hai nel sacco, come si dice qualche volta, utilizzando un proverbio che comunque chiama qualcosa di spiacevole. Fino a quando chiaramente queste persone non rivedranno i loro soldi, non ci crederanno fino in fondo. Intanto io saluto e ringrazio un'ascoltatrice, Graziella, che è la persona che avete sentito anche all'inizio della scheda che vi abbiamo appena proposto, peraltro molto brillantemente come sempre preparata dal nostro Marco Lombardo. Graziella ci aveva per prima, nella scorsa trasmissione, trasmissione raccontato quella che le stava accadendo. Adesso le condizioni, la situazione non è ancora cambiata, però ha accettato di nuovo di intervenire perché comunque qualche piccola novità c'è stata, non proprio positiva. Graziella, buongiorno. E bentornata. Allora, io intanto la ringrazio anche per l'altra volta, perché devo anche riconoscerle la grande lucidità con cui ci raccontò quello che le stava accadendo. Io le dico, se capitasse a me andrei nella totale angoscia, per cui trovarsi da un giorno all'altro nell'impossibilità di disporre liberamente del proprio denaro, avendo magari un solo conto corrente, immagino che tipo di vita le abbia fatto vivere appunto questa situazione. Intanto, le è stato comunicato il fatto che attraverso l'attività del Fondo Interbancario di Tutela lei dovrebbe rientrare entro poche settimane nella legittima proprietà, nella legittima disponibilità del suo denaro? No, assolutamente no. Come è successo il 31 maggio, nessuna comunicazione. Noi siamo venuti a conoscenza dai giornali e comunque dal sito che riporta la dicitura che insomma la situazione dovrebbe sbloccarsi a breve. La cosa simpatica invece è che si sono presi la briga di trattenere le spese di bollo e le spese per la carta di credito, come se tutto avesse funzionato regolarmente. Oltre il danno la beffa. E quindi invece lei, in questo frangente, da quando i conti sono stati bloccati, non ha più potuto utilizzare né bancomat né carta di credito? Tra l'altro sono stati effettuati anche regolarmente, per esempio, non so lei che tipo di spese aveva appoggiate su questo conto, bollette, il mutuo, bollette Enel, sì, fiscali, insomma, il telepass che ho dovuto ad esempio disdire il contratto perché mi hanno bloccato il telepass. Ecco, quindi diciamo i pagamenti non avvenivano neanche regolarmente con il blocco del conto. Assolutamente, risultavo morosa. Ecco, appunto. Graziella, cosa ha fatto in questo frattempo? Ha aperto un altro conto corrente? Perché poi, come le spiegheremo, per a seconda tecnicamente le modalità con cui il fondo interbancario funziona, teoricamente appunto loro la contatteranno e le chiederanno di immagino un altro conto corrente d'appoggio per la somma che le dovrebbe essere riaccreditata appunto su quest'altro rapporto di conto. Lei ne ha aperto un altro nel frattempo? Sì, per forza, perché dovevo canalizzare gli stipendi, quindi. Benissimo, è più tranquilla adesso Graziella oppure fino a quando non vede non ci crede, un po' come San Tommaso? Esatto, ecco. Fino a quando non vedo non credo. La ringrazio per essere ritornata a testimoniarci la sua situazione. Buona giornata Graziella. Buona giornata anche a voi, arrivederci. Allora, sono un po' indecisa su chi cominciare. Cominciamo con Anna Vizzari, altro consumo che ci aiuta sempre molto nel tentare di capire come funzionano queste cose. Allora, lo sblocco dei conti correnti, come dicevamo in apertura, è avvenuto il 17 luglio perché praticamente anche queste procedure hanno degli step tecnici da seguire e ci avevano anche spiegato dal fondo interbancario le persone appunto che dal punto di vista tecnico ci hanno effettivamente spiegato come funziona poi quando questo entra in azione. Si attende generalmente la dichiarazione di liquidazione coatta della società, cosa che è avvenuta il 17 luglio per Banca Network Investimenti e quindi Anna Vizzari nel giro di 20 giorni lavorativi immagino le persone dovrebbero tornare nella piena disponibilità del loro denaro. Sì, da quello che sappiamo i commissari liquidatori si sono insediati il 18 luglio, quindi è da quel giorno che dovrebbero partire i 20 giorni lavorativi, quindi noi ci attendiamo che il rimborso avvenga tra il 16 agosto. Ricordiamo però che Banca d'Italia può fare una proroga, diciamo, di 10 giorni lavorativi rispetto a questi 20 giorni per questioni particolari di urgenza, quindi si potrebbe arrivare al massimo al 30 di agosto per poter ottenere indietro il denaro. Da quello che ho capito, leggendo le modalità di funzionamento, i correntisti non devono far nulla, dovrebbe essere direttamente il fondo interbancario che li contatta ad uno e spiega loro quali sono anche le procedure per la restituzione di questo denaro, che peraltro, ammettendo che sia di importo particolarmente alto, non credo che avvenga tutto in una tranche, Vizzari. Allora, al momento, secondo le nuove disposizioni che sono entrate in vigore dal 2011, non c'è più la famosa limitazione dei 20.000 euro che dovevano essere pagati in una prima tranche immediatamente. Quindi al momento tutto dovrebbe avvenire entro i termini che ho detto prima. Certo, il fondo interbancario che si insedierà nel passivo, quindi sicuramente i depositanti non dovranno fare nulla tecnicamente per insinuarsi nel passivo, sarà il fondo interbancario che li contatterà per individuare anche le modalità di rimborso, quindi sostanzialmente il codice IBAN per esempio del conto corrente su cui effettuare rimborso. O magari ci potrebbe anche essere una banca che decide di far proprie le posizioni e quindi di aprire dei rapporti in sede, appunto, nella sua sede. E vedremo un po' come cosa succede. Infatti, se si legge il comunicato sul sito di Banca Network, si dice anche, appunto, che ancora le modalità operative non sono state individuate e che presto si arriverà a una individuazione. Quindi diciamo che siamo anche abbastanza dubbiosi del fatto che entro la prima parte di agosto qualcuno vedrà niente sul proprio conto, sarà quantomeno contattato. Isabella Mori, responsabile servizio di tutela di cittadinanza attiva, voi per aiutare i correntisti di Banca Network avete messo a disposizione un servizio di consulenza e tutela gratuito, attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 fino al 3 agosto. Do anche il numero di telefono, poi lo riporteremo anche sul nostro profilo Facebook, 06 36 71 8555. Vi stanno già contattando, che cosa vi raccontano le persone che si stanno rivolgendo a voi? Una precisazione, sì. L'orario è 9.30 13.30. Che cosa ho detto? 9.13, invece 9.30, 13.30. Ah, perfetto, grazie, grazie molto. Va bene, sì, no, così li portiamo correttamente. Sì, sì, noi abbiamo aperto, diciamo, questo servizio a favore dei cittadini ed in più abbiamo messo delle FAQ, dei moduli di tutela sul nostro sito internet, proprio perché tutta la vicenda è avvenuta nella totale, come dire, inconsapevolezza da parte dei correntisti. Quindi questa è una cosa, a nostro avviso, molto grave, come del resto abbiamo sentito in tutte le testimonianze che avete riportato e in quella in particolare della signora che ha parlato in apertura. Quindi chiaramente, per poter dare maggiori informazioni, intanto li stiamo informando di tutte queste cose che sono state riassunte finora e quindi del fatto che finalmente si è attivata la procedura di liquidazione, finalmente quindi, come dire, si vede un pochino di luce nel tunnel. Abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni e all'indomani, diciamo nei primi di giugno, quando sono iniziati ad essere bloccati i conti, persone assolutamente disperate, non avevano avuto informazioni, non sapevano a chi rivolgersi. Quindi già a giugno eravamo intervenuti con questo servizio e con una serie di informazioni da dare. Adesso siamo riintervenuti perché anche la notizia della liquidazione coatta, appunto, è apparsa così un po' in sordina e poi ancora non c'è nessuna certezza né sui tempi né appunto sulle modalità. Le persone che ci chiamano sono persone che hanno dei casi simili a quelli che avete raccontato, cioè delle bollette da pagare, dei mutui da pagare, quindi hanno dovuto in fretta e in furia aprirsi un altro conto, chi aveva le possibilità chiaramente di farlo, chi aveva i soldi bloccati lì è dovuto ricorrere a parenti, amici per fare fronte a questa situazione di assoluta emergenza. Ecco, infatti, tra l'altro, proprio anche questa ulteriore evoluzione della vicenda che ci ha raccontato la nostra ascoltatrice a me ha generato un po' di rabbia, perché io capisco anche il blocco del conto, ma se si blocca deve essere bloccato su tutto. Il fatto di far pagare ad un correntista l'imposta di bollo ci sta, ma io spero che quantomeno sia stato proporzionale ai mesi di utilizzo di gestione del conto corrente, così come appunto la gestione della carta di credito, tutti aspetti sui quali magari chissà anche se varrà la pena in futuro attivare delle iniziative di tutela, poi magari ne parleremo. Adesso vorrei coinvolgere Salvatore Gazziano, che invece nel suo sito Money Report ha affrontato la questione di Banca Network Investimenti da un altro punto di vista molto importante. Una banca che operava attraverso una rete di promotori finanziari, nata alla fine del 2003, anche l'altra volta avevamo ripercorso la vicenda societaria, e qui non stiamo parlando solamente della situazione dei malcapitati correntisti, qui parliamo anche di un gruppo di dipendenti, una sessantina di persone, poi credo che sei siano state assunte o saranno assunte dalla società di promotori finanziari che acquisisce la rete di Banca Network, e parliamo poi anche della situazione di questi promotori finanziari che, ci si può credere o no, per la verità sono stati anche loro un po', Salvatore, che ne pensi, vittime di questa situazione? Ma è difficile dare sempre dei giudizi generali quando succedono queste cose. Io da osservatore, giornalista e analista devo dire che su Banca Network da tempo si sapeva che non era una banca che se la passava bene. Peraltro è vero che il procedimento adesso di liquidazione coatta e poi il blocco dei conti è arrivato nell'arco di pochi mesi, ma già dalla fine dello scorso anno questa banca era in amministrazione straordinaria e quindi i clienti e soprattutto degli operatori professionali come dei promotori finanziari, secondo me alcuni, qualche domanda sul fatto che questa banca era solida o meno e che i propri risparmiatori clienti potevano essere tranquilli di tenere i soldi lì, se la dovevano fare. Perché si sapeva da tempo, e sono usciti anche articoli sui giornali sul fatto che gli azionisti di questa banca non andavano molto d'accordo, non volevano tirare fuori i soldi, e questo è significativo. Se poi la ricordiamo, la cronistoria la rifacciamo. Quando c'è un aumento di capitale, c'è da tirare fuori i soldi, non li si tirano fuori. No, devo dire che a me la cosa che più un po' ha disturbato anche delle posizioni prese dai singoli azionisti è che tutti, in qualche maniera, pure anche quelli che avevano una partecipazione rilevante, quindi di controllo di Banca Network Investimenti, abbiano detto: noi non avevamo nessuna responsabilità nella gestione manageriale e dirigenziale appunto della banca, perché avevamo solo questa partecipazione finanziaria. Per sì, qua in Italia ormai si perpetua questo concetto che tutto succedeva sempre all'insaputa dell'azionista di maggioranza, all'insaputa dei manager, all'insaputa dei promotori, all'insaputa dei clienti. Io quando sono preso questo articolo mi sono ricordato di una bella frase di Einaudi che diceva che il risparmiatore ha la memoria di elefante, gambe di lepre e cuore di coniglio. E purtroppo anche in questa vicenda dimostra che invece molti risparmiatori le gambe di lepre e il cuor di coniglio in realtà non ce l'hanno più da tempo, nella maggior parte dei casi, e questo non ce l'hanno nemmeno i promotori o coloro che dovrebbero, diciamo, servire il risparmiatore e fare il loro interesse, perché, certo, ripeto, non è normale, secondo me, che così tanti clienti e tanti promotori sono rimasti impigliati in questa vicenda. Allora, senza vergognarmi, io ho lanciato, non dico un sospetto, ma un ragionamento che ho pubblicato intervistando anche delle persone, sul fatto che in queste situazioni è evidente che vi è sempre comunque una parte di conflitto di interesse, che dobbiamo ricordare che esiste. Cioè, il promotore non ha interesse spesso a far scappare, tra virgolette, il proprio cliente dalla propria rete dei contatti, perché su questo guadagna e ottiene delle retrocessioni, e tra l'altro ne parleremo magari dopo, anche i clienti che avevano i soldi su Banca Network, che avevano investito, si trovano anche in alcune situazioni con dei prodotti non facilmente liquidabili, quindi qui c'è anche, diciamolo pure, perché non sempre dobbiamo parlare solo bene del risparmiatore, purtroppo il risparmiatore spesso si lascia, io scrivo provocatoriamente, attrarre dalla sindrome di Stoccolma, si rimane attratto dal proprio carnefice. Cioè, più perdono, più rimangono attaccati a coloro che gli hanno fatto perdere, in questo miraggio del fatto di recuperare le perdite. Ultima cosa, e poi credo mi interessa sentire anche il parere delle altre associazioni, anche qui c'è sempre il concetto che tanto la banca è sicura, non può succedere nulla, la banca è sicura. Purtroppo stiamo, in questi giorni lo dimostrano, evolvendo su un nuovo concetto che di sicuro c'è ben poco, e anche sul fondo di tutela dei depositi interbancari c'è anche lì da raccontare e spiegare bene come funziona, perché è un pozzo dove i primi arrivano, ma non possiamo assicurare, certamente, perché viene alimentato periodicamente dalle stesse banche, chiaramente. Esatto. Se fallisce una piccola banca come Banca Network Investimenti, c'è la risorsa che basta per poter ripianare appunto le perdite dei correntisti. Se dovesse fallire una banca più grande, sarebbero tutt'altre storie. Adesso le altre questioni poste dai nostri ascoltatori all'800240024. Vi ricordo gli altri ospiti di oggi, anzi le altre ospiti di oggi: Anna Vizzari di Altro Consumo, Isabella Mori, Cittadinanza Attiva. Sentiamo Massimo da Modena, che era pronto da un po'. Massimo, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci racconti? Ma il tutto è capitato, direi, il 1° giugno. Ero a Milano con la giornata mondiale delle famiglie, rientro per andare in hotel, faccio per pagare con la carta bancomat, carta inutilizzabile. Vabbè, proviamo con la carta di credito, inutilizzabile. A quel punto, pur essendo mezzanotte passata e non avendo altri sistemi di pagamento, sono dovuto rientrare. E vabbè, io davo per scontato che fosse stato un blocco temporaneo del sistema, visto il caos di gente che c'era. In albergo che cosa le hanno detto, Massimo? Perché mi immagino anche la situazione di imbarazzo nella quale si sarà trovato, no? Come capita quando al supermercato non ti funziona la carta per tutti i motivi del mondo, e stai lì e ti sembra che ti guardino tutto. Ma questo mi è capitato il giorno dopo al supermercato. Ecco. Lo stesso giochino l'ho avuto il giorno dopo. No, loro hanno dato la colpa, magari c'è un blocco dato dall'afflusso di persone che c'è, tenga presente il milione di persone che sono qui, Il problema è che avevo questi due sistemi di pagamento, io ho dovuto prendermi e ritornare a casa perché diciamo che in albergo ovviamente non c'era la possibilità di pagare, quindi ok, colpa mia perché non avevo preso contanti, ma avendo il conto corrente con ci dicono sempre di non andare in giro con tanto contante, di utilizzare lì al massimo la moneta elettronica, non sono mai contenti Massimo. Esatto, la volta dopo è stato il lunedì, perché questo è capitato da sabato sera, mentre facevo spesa al supermercato, anche lì carta bloccata, a quel punto sono andato direttamente dal promotore che ho trovato, e che questa è la ciliegina, poi probabilmente questa mia versione verrà smentita perché ho imparato che è anche illegittimo quello che è stato fatto, comunque la risposta è stata ma la banca ha dei grossi problemi, io comunque avevo avvisato tutti i correntisti di vuotare il conto corrente, dico scusi, e il mio? E non ho trovato il suo numero di cellulare, peccato che io il mio numero non l'ho mai cambiato negli ultimi 20 anni. Infatti, oltretutto quando questa cosa l'ho detto alla Banca Network di Milano, il numero telefonico con cui sono riuscito a parlare, mi hanno detto che questa era una grave scorrettezza, che non avrebbero potuto i promotori avvisare parte dei correntisti, perché così qualcuno è riuscito a votarsi conto e altri come me c'è rimasto dentro. Oltretutto io ho anche un'altra carta di credito che si appoggia lì, la quale non trovando il pagamento mi ha protestato, compreso le spese, e mi ha mandato anche la segnalazione. Avendo la segnalazione adesso faccio fatica a aprire un conto corrente. Ecco, no, questa invece è una situazione molto grave, perché ci sta anche bene tutto il resto. Allora direi intanto che sicuramente può segnalare l'operato del suo promotore all'organismo di riferimento per questa categoria che è l'ANASF. Non so cosa potranno fare, ma siccome il danno d'immagine per un promotore finanziario è gravissimo, direi di cominciare intanto a non parlar bene di come ha operato questa persona. Seconda cosa, allora Massimo, aspetti lì, perché a me questo fatto che per responsabilità altrui mi si blocca il conto corrente, passo io nella lista dei cattivi pagatori, mi indispettisce un po'. Anna Vizzari, come si può tutelare questa persona? Le tutele qua sono un po' difficili da attivare, perché diciamo che la segnalazione era avvenuta in maniera automatica, perché probabilmente la carta di credito era stata emessa da un altro istituto che non era Banca Network, ma veniva pagato con un read sul conto corrente che è stato bloccato. Però io immagino che se questa procedura automatica l'attiva il CRIF, che è appunto il servizio, il CRIF sappia in che condizioni si trova Banca quello Network. Che volevo aggiungere è questo, che in altri casi, per esempio il fallimento del movimento, fallimento di azione e pagamento delle rate dei finanziamenti, in altri casi si è riuscito in qualche modo ad evitare queste segnalazioni o comunque a bloccarle o a cancellarle, per cui sicuramente tutti i correntisti che hanno subito dei danni, lamentandosi insieme, quindi aumentando il numero delle segnalazioni, possono attivare queste segnalazioni, che potrebbero poi convincere il CRIF sostanzialmente ad eliminarle. Certo non è corretto e sicuramente non è giusto che un correntista che ha avuto un blocco a causa di una situazione di insolvenza di una banca, che non è stato neanche avvertito adeguatamente, subisca questi danni, su questo siamo d'accordo, però quello che si può fare è soltanto convincere in qualche modo i SIC, quindi le centrali di rischi private, a cancellare queste segnalazioni. Voi avete immaginato in altro consumo, non so Vizzari, magari di fare qualche iniziativa di tutela di massa di queste persone che hanno subito anche oltre al danno la beffa? Esatto, stiamo raccogliendo le segnalazioni e proprio pensando a un'attività di questo genere, quindi ad una magari anche a delle conciliazioni, ecco, tutte insieme, a degli incontri anche con le centrali di rischi private per convincerle a fare queste Certo, mi pare il minimo sindacale che queste possano fare, perché insomma se la gente non paga non per colpa sua, quantomeno devono avere la garanzia di mantenere un profilo di pagatori immacolato. Volevo sentire anche Isabella Mori cosa ne pensava di tutto questo. Cittadinanza attiva, sì. Sì, sì, io sono perfettamente d'accordo con quanto è stato detto finora. Noi stiamo raccogliendo queste segnalazioni e per quanto riguarda le centrali rischi privati abbiamo già scritto comunque delle lettere anche a nome di Cittadinanza attiva, sollecitando la cancellazione di quei risparmiatori che sono stati iscritti in maniera incolpevole. È chiaro però che è una prova, nel senso che, come è stato detto prima, in questo caso partono in automatico le segnalazioni. azioni. Sicuramente per quanto riguarda ad azioni collettive o anche a mediazioni, procedure di conciliazione, ci stiamo lavorando, perché in passato è già accaduto, faccio l'esempio del crack del risparmio e quindi bond, Cirio, Parmalat e quant'altro, è già avvenuto che le associazioni si mettessero insieme e cercassero in qualche modo di trovare delle soluzioni conciliative per andare a tutelare i consumatori. Immagino già una serie di casistiche che altrimenti rimarrebbero fuori, quello che è stato detto prima, ok, i risparmiatori verranno rimborsati per i soldi che avevano sul conto fino a 100.000 euro, ma tutte le spese ulteriori che sono state addebitate, immaginiamoci, se questo sarebbe grave se fosse avvenuto, però ancora non sappiamo nulla, però magari nel periodo successivo al blocco del conto, allora poi chi rimborserà di tutte queste spese i cittadini? Eh no, l'ascoltatrice iniziale questo è successo, perché già ha avuto l'addebito appunto del costo della carta di credito. In questi casi dobbiamo pensare a delle soluzioni che in qualche modo ci permettano anche in maniera collettiva, come è stato detto, di tutelare tutti quei risparmiatori che rientrano che hanno subito questi gravissimi disservizi. Andiamo a Paolo da Bergamo, che affronta un altro aspetto che ci interessa molto. Paolo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, la ringrazio. Io volevo fare questa domanda: chi avesse investimenti in gestione di fondi Banca Network, cosa succede? Perché il mio promotore mi ha avvisato che stava fallendo ovviamente la banca. Ecco, allora diciamo che non dovrebbe succedere nulla, perché in ogni caso i fondi, così come le polizze di Aviva, che è uno dei soci più importanti, dei quattro soci di riferimento appunto di Banca Network Investimenti, sono patrimonio separato, per cui non dovrebbe succedere nulla. Però Salvatore Gazziano, magari diamo una voce in più rispetto a questo aspetto. Riguardo questo cliente aveva dei fondi a parte. Esattamente, lui praticamente, il promotore finanziario, gli ha venduto dei fondi di investimento, credo, perché comunque la rete dei promotori finanziari utilizzava la banca come ente di intermediazione, naturalmente. Da questo punto di vista, da quel che ci risulta, non dovrebbe correre alcun rischio, perché i fondi fanno parte del patrimonio separato da quello della banca. Certo. Il cliente ha la proprietà dei fondi, anzi, proprio anche a me era venuto, quando avevo scritto l'articolo su Money Report qualche giorno fa, il dubbio. Ho chiamato la banca e ho chiesto: ma se io sono un cliente e ho un deposito, titoli o fondi presso la vostra banca e voglio spostarli su un'altra banca, a questo punto per sicurezza, posso fare questa operazione? Sono bloccati i soldi e il cash, ma i titoli sono bloccati o meno? E mi hanno risposto che io posso trasferire i titoli presso altra banca, e questo è un aspetto molto importante. Certo. Perché in altre situazioni del genere, come era successo qualche tempo fa in un'altra piccola banca che era, diciamo, nota alle cronache perché vi era dentro gli eredi di Pavarotti, la banca Emiliano Romagnola, in quel caso la Banca d'Italia aveva bloccato anche la possibilità di spostare i titoli e i fondi, perché probabilmente sospettavano che facendo così scappava anche qualcuno che magari aveva gestito la finanza in maniera molto allegra. E qui torniamo anche su dei risvolti di attualità, sul fatto che è più sicuro in situazioni di crisi avere titoli, quindi fondi per esempio, che non cash come conti bancari o conti deposito. Certo, no, tra l'altro io immagino anche che a Paolo, che ha dei fondi di investimento, adesso non so di quale società, perché tra l'altro so per certo che Banca Network Investimenti vendesse delle polizze di Aviva, e questa compagnia di assicurazione ci aveva anche pregato di divulgare la loro posizione ufficiale su questa vicenda, e ci aveva detto di informare i consumatori che si sarebbe fatta pienamente garante delle proprie obbligazioni, onorando gli impegni contrattualmente assunti. Quindi per le polizze non ci saranno sicuramente nessun problema. Per quello che riguarda i fondi venduti attraverso Banca Network, io immagino anche, Salvatore, che arriverà al nostro ascoltatore una rendicontazione periodica di questo tipo di investimento, che nulla ha a che fare con Banca Network, per cui magari da lì potrà avere la certezza o meno che questo rapporto continua. Non dovrebbe esserci nessun problema da quel punto di vista. Certo, magari chiedo all'ascoltatore di scriverci, così vediamo anche la società di fondi che gestisce questo prodotto appunto di questo ascoltatore, magari ci faremo anche noi intermediari al posto di Banca Network, al posto di questo promotore, di questa ricerca appunto di informazioni. Che possiamo sentire adesso? Ah sì, Luciano dalla provincia di Milano. Luciano, buongiorno. Buongiorno, senta, la mia domanda al suo ospite è questa: se è a conoscenza del suo ospite, se ci sono altre banche che potrebbero cadere in questo stesso problema, cioè che abbiano delle sofferenze, insomma. Allora, adesso io non so chi tra Isabella Mori o Anna Vizzari mi può aiutare, io comunque ho una lista sotto gli occhi, perché abbiamo un elenco di banche italiane in procedura di amministrazione straordinaria. Sono naturalmente istituti microscopici, molto piccoli rispetto ai big del settore bancario italiano, però l'elenco dove si può trovare, peraltro adesso chiedo anche a Marco Lombardo che me lo ha messo a disposizione il mio assistente, vorrei capire se lo ha trovato sul sito del Fondo Interbancario. Anna Vizzari, mio collaboratore Marco Lombardo, mi ha detto: guarda che la lista delle banche in procedura di amministrazione straordinaria l'ho trovata su Altro Consumo. Ecco, noi l'abbiamo trovata sul sito di Banca d'Italia. Ecco qua, quindi insomma la procedura Banca non è d'Italia, difficilissima. Banca d'Italia, sezione vigilanza, cioè ci sono i comunicati sulle amministrazioni straordinarie. Al momento sono 8 banche in amministrazione 8. Straordinaria. E di due intermediari sono... non bancari, due SGR. Esatto, sono 4 banche di credito cooperativo, una cassa di risparmio, due casse di risparmio, 4 banche di credito cooperativo. Posso dire qualche nome perché tanto certo. L'elenco è pubblico, c'è la Banca di Credito Cooperativo di Cosenza, la Cassa di Risparmio di Rimini anche vedo, sì. La Banca di Credito Cooperativo di Tarsia, provincia sì. Di Cosenza, la BCC Luigi Sturzo di Caltagirone, provincia di Catania, la BCC di Altavilla Silentina e Calabritto, provincia di Salerno, Banca Network Investimenti, l'Istituto per il Credito Sportivo di Roma, Banca Tercas, Cassa di Risparmio della provincia di Teramo, Banca del Credito Cooperativo Monastire del Sile Treviso, Delta 16 Banca SPA Bologna Roma e poi queste due intermediari appunto non bancari, queste SGR Total Return SGR di Mantova e CAPE o CAPE Regione Siciliana, CAPE credo che sia, SGR Provincia di Palermo. Però come diceva Anna Vizzari, appunto l'elenco è pubblico, potete andare sicuramente a trovarlo sul sito della Banca d'Italia. Allora sentiamo Renato da Verona. Renato, buongiorno. Buongiorno. Ci Dai. Dica, sì. Sì, niente, io praticamente volevo portare anche una parte positiva per i promotori finanziari, nel senso che il mio promotore finanziario di Banca Network, che col quale ho iniziato a lavorare circa una quindicina di anni fa, quando c'è stata l'amministrazione controllata, me l'ha evidenziato, me l'ha fatto presente, mi ha detto: guarda, ti conviene spostare tutto, già io stesso mi sto spostando presso un altro, per lavorare presso un altro istituto, e io mi sono spostato sempre su una banca, adesso non so come definirle, di quelle tipo Banca Network che non ha sportello, che è IV Bank, e niente, io praticamente ne sono uscito indenne. Certo. Anche... Renato, la ringrazio. No, devo dire che anche nell'altra occasione, nell'altra trasmissione dedicata a questo argomento, altri ascoltatori ci avevano portato la stessa testimonianza di chi è stato avvisato in tempo ed è stato anzi aiutato dal proprio promotore a smobilizzare le quote sul proprio conto corrente, per cui a riorganizzare la propria posizione. Adesso è chiaro che noi abbiamo parlato di chi non si è comportato in maniera totalmente trasparente, la gran parte delle persone invece lo ha fatto in totale supporto alla propria clientela, come è giusto sempre che il promotore finanziario agisca. E però anche ribadisco, anche loro sono sicuramente delle vittime di questa situazione. Allora, tra l'altro c'è un ascoltatore, adesso vediamo se Marco me lo riesce a recuperare, Maurizio da Teramo, che appunto proprio voleva intervenire sull'amministrazione straordinaria di questo istituto che abbiamo nominato nella lista delle banche italiane in procedura di amministrazione straordinaria, l'istituto Tercas, Banca Tercas, Cassa di Risparmio della provincia di Teramo. Lui chiede: mi devo preoccupare? Veda lei, io non lo so, magari la situazione si ripiana, si ristabilisce, ma un'amministrazione straordinaria, io direi che Salvatore Gazziano è un indicatore da non sottovalutare. Ma guarda, proprio l'altra settimana mi è capitato un caso di persone che sono andate lì per essere rassicurate, perché volevano portare via i soldi e in banca gli hanno fatto comprare delle altre obbligazioni della banca. Quindi purtroppo funziona così il sistema. Se uno vuole rimanere fedele al motto di Einaudi, e se nel caso di Tercas c'è stato un grosso problema immobiliare di alcuni finanziamenti concessi allegramente, quindi conosci anche questa situazione. Sicuramente è già di per sé fragile per il sistema bancario italiano. Andare anche a insistere con accanimento terapeutico quando magari nella stessa sede dove opera c'è un'altra banca con magari indicatori un pochino più affidabili, io personalmente cambierei senza problemi. Ecco, abbiamo raggiunto Maurizio da Teramo. Maurizio, buongiorno. Ha sentito, ne stavamo parlando adesso della situazione di Tercas. Sì, buongiorno. Niente, io ho saputo, diciamo, tramite i giornali che la banca era in amministrazione straordinaria, poi ho chiesto delucidazioni al direttore, naturalmente mi ha tranquillizzato dicendo che non c'era nulla di particolare, però siccome questo è un conto aziendale dove ci transitano insomma dei soldini, quindi volevo capire, perché un conto è una banca piccola, Tercas ha filiali, non è una banca online, quindi è una banca tradizionale, Sportelli. Tradizionale, Sportelli, quindi che diciamo in tutta Teramo, anche Pescara, perché poi aveva rilevato la Caripe. Quindi volevo capire, diciamo, se perché diciamo sul sito della Banca d'Italia, mi ricordo che sono andato a stampare la circolare, ci sono dove, anche loro. Dove diceva che veniva, si proseguiva con la normale, diciamo, quotidiana, diciamo. Le comporterebbe una grave difficoltà, una seria difficoltà, molto disagio spostare il suo rapporto di conto da questa banca. Adesso io non vorrei neanche invitare a farlo, perché mi sento anche a disagio a parlare di una situazione, ce la citava prima Salvatore Gazziano, di che non conosciamo. Però voglio, se già questa situazione le genera preoccupazione, Maurizio. No, il problema è che diciamo è un po' complicato spostare tutto. Sì, perché ci sono tutti i RID insomma, dei nostri clienti, quindi è abbastanza articolato, quindi non è un conto corrente normale, che uno ci sono appoggiati tutti, certo, i RID dei nostri centinaia di clienti. Allora, sentiamo che cosa ci danno come indicazione le associazioni dei consumatori. Isabella Mori, di Cittadinanza Attiva. Allora, adesso diciamo che teoricamente, anche a seguito delle tante polemiche che hanno riguardato la gestione dei conti correnti degli anni passati, il trasloco da una banca ad un'altra è più facile del passato, no? Anche se questo è come dire, ricco di RID, anche se su questo sono appoggiate tante operazioni. Lei che cosa suggerirebbe di fare a Maurizio? Ma guardi, anch'io diciamo parlare del caso della singola banca in difficoltà non mi sentirei, in generale come consiglio che possiamo dare sicuramente mi sentirei di dire di trasferire il conto. Del resto, come ricordavate prima, a seguito della legge Bersani veramente i tempi per il trasferimento, per il trasloco del conto corrente sono brevissimi. Poi che di fatto questo non avvenga e quindi che poi ci siano delle segnalazioni su questo, perché le banche, come dire, un pochino ci giocano sui tempi, è un altro discorso, però non essendo ancora una situazione precipitata, come dire, io consiglierei di correre ai ripari in questo caso. Grazie a Isabella Mori. Tra l'altro nel frattempo mi ero un po' distratta, perché mi ha detto Marco, il mio assistente, che ha chiamato anche la dipendente che l'altra volta ci aveva reso una testimonianza molto significativa e ancora una volta lamenta, non interviene in questo caso in diretta, che nessuno si è fatto carico appunto della situazione dei dipendenti, che lo stesso hanno delle famiglie a carico, molte di questi sono oltre che dipendenti anche correntisti, per cui anche clienti della banca, e anche in questo caso oltre al danno la beffa, da quello che capisco 60 dipendenti, 6 risorse sarebbero state assunte o comunque lo saranno, forse anche lì poi il gioco al massacro, chi dei 60 appunto da banca Consulting Best Sim che acquisisce la rete dei promotori finanziari. A loro tutta la nostra solidarietà, non so davvero che dire. Volevo rapidamente ascoltare Marco da Torino, perché anche in questo caso per il blocco del conto non ha potuto pagare le rate del mutuo e subito è nata la rogna. Marco, buongiorno. Rapidissimo, buongiorno, grazie. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, sono stato contattato da una società di recupero credito. Allora, io ho un mutuo presso la banca Barclay, sulla Barclay, e mi appoggiavo al conto di Banca Network per pagarlo. Tra l'altro finirà questo mutuo a settembre, quindi avrò pochissime rate. Non avendo potuto pagare la rata di giugno, a luglio sono stato contattato dall'agenzia di recupero crediti della banca Barclays, chiedendomi di fare un bonifico per pagare la rata del mutuo per il mese di giugno e anche per il mese di luglio, perché la situazione non si sarebbe sbloccata. Chiedendomi poi, tra l'altro, per il mese di agosto, eventualmente di ricontattarli per pagare questo bonifico. Nel frattempo ho dovuto pagare una mora, sono tantissimi euro, però lo trovo veramente vergognoso. Direi di sì, una mora, differenza fra quanto era il valore della rata e quanto è quello che in realtà ho pagato. Cioè, io non sono responsabile, ovviamente, in questa situazione. Dico delle cose già scontate da tutti. Sì, sì, no, Marco, però ha fatto bene a raccontarcelo. Quello da aggiungere al fatto che sono immediatamente stato contattato. Ho chiesto come mai, visto che la situazione non mi riguarda. Ma noi obbligatoriamente, se uno non paga una rata, è vero, sono delle procedure. Esattamente come si finisce appunto nei centrali rischi, come ci spiegava prima Anna Vizzari, giusto? assolutamente rientriamo nella casistica precedente, quindi anche in questo caso il consiglio è quello di fare una segnalazione per iscritto, magari anche appoggiandosi a un'associazione di consumatori, e poi ci faremo noi carico di attivare delle procedure di conciliazione, di mediazione per poter recuperare queste spese che sono sicuramente applicate in maniera un po' scorretta, ecco, su soggetti già non tutelati adeguatamente. Questo però proprio indispettisce, perché non appena tu non fai il tuo dovere, esatto, e tra l'altro quindi anche per tua responsabilità, vieni immediatamente contattato dalla società di recupero crediti che ti chiede di metterti immediatamente in linea e alla pari con i pagamenti. Qualora tu invece sei nella parte della ragione, nessuno ti dà un'informazione, passano dei mesi, ti ritrovi con il conto corrente bloccato, con nessuna possibilità di reperire informazioni da nessuna parte, se non fosse per qualche giornale, qualche volta anche qualche radio e le associazioni dei consumatori che fanno il loro. Allora, Salvatore Gazziano, mi rimangono un paio di minuti di tempo. Eravamo rimasti in sospeso con la questione del funzionamento del fondo interbancario di tutela dei depositi. Chi lo alimenta? Come funziona? Ma diciamo che più che un fondo sarebbe più giusto definirlo un consorzio di consorzio. È il consorzio tra banche, sì. In cui se una banca entra in difficoltà, tutte le banche che aderiscono, sono circa 300 in Italia, intervengono ex post, quindi intervengono dopo al fatto che si è verificato. Questo ci dice per definizione che per il meccanismo di alimentazione di questo fondo è sicuramente una risorsa importante, ma non può essere considerata un'arma risolutiva, soprattutto se parliamo, come diceva giustamente te all'inizio, di crisi di banche grosse o sistemiche. Per fare un'idea, per dare un'idea un poco della situazione, basti dire che in Italia, diciamo, i risparmi che dovrebbero essere protetti secondo questo schema, cioè sotto i 100.000 euro, ammontano a circa 460 milioni di euro. Ora, considerando che questo fondo raccoglie fino allo 0,4% dalle banche, ciò significa che su questi 460 miliardi di euro di risparmi, infatti, al massimo, di 460 miliardi di euro, al massimo potrebbe raccogliere circa poco meno di 2 miliardi di euro, quindi lo 0,4% in realtà è coperto. In realtà poi il meccanismo dice che in ogni caso, in ogni anno, l'articolo 21 dello statuto non può essere coperto più di un quarto di questo plafond. E quindi qui sì, torniamo al solito discorso che se una banca grossa dovesse avere dei seri problemi, questo fondo non è evidentemente sufficiente. Basta ricordare che comunque nel 2008 a un certo punto con il governo Berlusconi in carica disse che garantivano loro, cioè garantiva lo Stato. Infatti, perché evidentemente non ci richiamare quei momenti, guarda Salvatore, non ritorniamo a quei momenti, perché guarda, già che in questi giorni con questa borsa mi sembra di esserci ritornata, non voglio neanche parlare. È importante che adesso si sborsino i 65 milioni di euro per rimborsare i 30.000 correntisti di Banca Network. Grazie ad Anna Vizza, Isabella Mori, Salvatore Gazziano per essere stati con noi, grazie a Marco Lombardo per il lavorone fatto per questa puntata, Filippo Aureggi in assistenza tecnica. Torniamo domani, buona giornata.